9 in punto, la versione di Oscar. Buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica e buona pesca e buona mangiata di frittura di pesce. Buon mercoledì 2 giugno, ovviamente, sbaglio sempre il giorno o la data. Ma di cosa ci occupiamo oggi? Ci occupiamo di una notizia, l'avete sentita rilanciata anche dal giornale radio che ha preceduto l'inizio della trasmissione, che in questi giorni sta un po' animando le cronache leggere, per così dire, della stampa quotidiana italiana, che qualche giorno fa ha annunciato agli italiani: basta, voi il fritto di pesce come siete abituato a mangiarlo, a consumarlo, con quei pesciolini, i rossetti, i bianchetti, le seppioline, i calamaretti con cui si fa il fritto di pesce, no, ci dovete rinunciare, perché c'è questa nuova direttiva della pesca emanata dalla Commissione Europea che entra in vigore dal 1° di giugno e che ha delle norme che inevitabilmente allontanano dal vostro piatto tutte queste varietà ittiche, perché in realtà vengono messi dei limiti molto più restrittivi alla possibilità di pescarli, cioè per le draghe meccaniche, quelle che riguardano i cannolicchi eccetera, diventa più restrittiva la possibilità di pescarli. Così ancora per gli strascichi ci sono norme che allargano le maglie delle reti e quindi le varietà che fanno parte del novellame non vengono più acchiappate da queste reti. Insomma, per una serie di particolari tecnici nei quali ovviamente o si è molto esperti di calendari e di norme per le diverse tipologie di pesca oppure ci si perde un po' dentro, l'effetto è che salta dai vostri piatti la frittura di pesce. Alcune domande: ma l'Europa non ha di meglio da fare? E qui si scatenano un po' di reazioni di tutti noi, un po' mi ci metto un po' anch'io a essere un po' euroscettico di fronte al fatto che l'Europa delle burocrazie della Commissione impazzisce su dirvi qual è la circonferenza della zucchina e così via. L'esempio della storia europea è pieno di cose di questo genere, con un dubbio, perché poi si scatena una reazione ma poi ci si pone anche la domanda: ma non è che per caso abbiamo capito male? Cioè, secondo filone di osservazione, abbiamo davvero capito di che cosa si tratta o stiamo mediaticamente facendo una bolla, esagerando e non spiegando bene magari, o amplificando gli effetti di una normativa che invece è positiva? Perché, terzo filone di indagine, siamo proprio così sicuri che non si debbano guardare con attenzione anche a tutte quelle norme che rendono il patrimonio ittico, come tutto ciò che fa parte dei beni comuni che ci vengono dalla natura, un pochino più sotto tutela per impedire che venga depauperato e poi non ci sia più niente? Anche se, domanda conclusiva che vi pongo, qual è l'autorità migliore che sia meglio in grado di interpretare poi gli equilibri e le specificità delle razze, dei calendari, di una cosa come la pesca? Bruxelles da lontano o forse ciascuno al suo livello più vicino secondo il principio della sussidiarietà? Ecco, vi chiedo di parlare di tutte queste cose, soprattutto se siete poi nel settore della marineria, della pesca, che è un po' raro occuparsene, di un settore trascurato invece tradizionalmente che dava un grande contributo all'economia italiana. Siccome ci sono tutte le marinerie d'Italia, chi più chi meno, in protesta, noi apriamo i microfoni, se volete chiamarci 800 24 00 24 per esporre il vostro punto di vista. Ora io lascio la parola a chi è molto più titolato di me per spiegarvi in realtà cosa davvero sta succedendo. Io ho un po' l'impressione che l'approssimazione dei giornalisti, dei miei colleghi, mia per primo, per carità, non voglio indicare nessuno come colpevole, ancora una volta abbia colpito nel segno. Noi, pur di un titolo a effetto, siamo capaci di ridurre cose che non esistono a cose che esistono e di creare invece da ciò che esiste ed è buono un mostro. Questa è un po' deformazione che, pur di vendere una copia in più, però può essere che io mi sbagli. Allora, affidiamoci ora a due esperti veri, non come il sottoscritto. Innanzitutto abbiamo con noi Gianpaolo Buonfiglio, che è presidente di AGC Agrital. Buongiorno presidente Buonfiglio. Buongiorno. E Massimo Coccia, che è presidente di Federcoopesca di Conf Cooperative. Buongiorno Coccia. Buongiorno. Ecco Buonfiglio, innanzitutto ci fa capire un pochino meglio se questa norma, lei a che partito appartiene, per così dire, a quello della esagerazione giornalistica, che è un pochino anche la mia impressione, ma posso sbagliare, o a quello di chi invece, ma insomma l'Europa non ha niente di meglio da fare, o ancora terzo, no, queste sono norme positive, forse però bisognerebbe sentire di più chi è più vicino alla specificità dei mari italiani e forse dovrebbe essere più di competenza delle autorità italiane che di Bruxelles? Ce le spiega un po' meglio e ci fa capire quale di questi tre punti di vista è più probabile che sia vicino alla realtà? Sì, ma innanzitutto sicuramente in questi giorni sulle semplificazioni o sui titoli effetto dei giornali o dei servizi televisivi è stata fatta molta approssimazione, appunto si è anche un po' esagerato. Il problema c'è, esiste, è serio, anche se c'è da dire che non si tratta di una nuova direttiva comunitaria che è arrivata improvvisamente sulla pesca italiana e che colpisce i nostri pescatori. In realtà si tratta di un regolamento già approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2006 che ha inserito tutta una serie di norme, tra cui anche queste relative alle maglie dello strascico e delle distanze dalla costa. Erano queste le ultime due misure che beneficiavano di una deroga che è scaduta il 31 maggio. Quindi innanzitutto sono norme di 4 anni fa. Sono norme di 4 anni fa che si univano a moltissime altre che entravano nel campo degli attrezzi da pesca, sulle caratteristiche tecniche, sulle taglie minime pescabili e così via. Evidentemente, come questo è un po' un vizio italiano, abbiamo fatto finta di niente, molti hanno fatto finta di niente fino all'ultimo giorno di vacanza, fino all'ultimo giorno in cui la deroga era in vigore, per scoprire che queste norme, che non sono affatto nuove, sarebbero entrate in vigore dal 1 giugno. L'Unione Europea non ha niente di meglio da fare, c'è da ricordare a tutti, a cominciare da me, che la pesca, la gestione delle risorse ittiche è dal tempo del Trattato di Roma, e parliamo quindi del 1972, competenza esclusiva della Unione Europea, allora si chiamavano Comunità Economiche Europee, e quindi loro hanno, da Bruxelles c'è la possibilità di legiferare su qualsiasi cosa riguardi la gestione di qualsiasi pesce, perché il pesce, appunto, come lei ricordava prima, è un bene comune. Evidentemente in tutto ciò la specificità locale sarebbe bene fosse inquadrata in un quadro di maggiore sussidiarietà, perché giustamente, come la ricordava, la specificità dei nostri mari la conosciamo meglio noi che il legislatore di Bruxelles. Oh, ma dal punto di vista dell'evoluzione del settore ittico, da che esiste la comunità, questa competenza che abbiamo appena ricordato, è un po' vero anche nella pesca ciò che è molto noto invece per quel che riguarda le politiche agricole. Noi sappiamo che per decenni gli indirizzi fondamentali delle politiche agricole, al di là dei costi nei settori sostenuti e dalle quantità delle produzioni sostenute, ha fortissimamente riverberato la priorità degli interessi politici e produttivi delle economie del nord nel settore agricolo. Dico solo, negli ultimi anni, poi con l'ampliamento dell'Europa, si è riequilibrato man mano il processo, man mano che la PAC iniziava a perdere alcune dicono troppe risorse che aveva nel budget comunitario. Questo è avvenuto anche nel settore ittico e della pesca, quindi con un forte predominio dei paesi nord europei per tipologie, calendari, eccetera, eccetera, meno oppure per niente? La politica della pesca ha sicuramente cominciato dal nord Europa, dall'Atlantico, dal mare del nord. Gli interessi prevalenti dell'Europa nella pesca sono cominciati da lì. Da noi in Mediterraneo sono arrivati prima, se vogliamo, i benefici, i fondi comunitari, i fondi strutturali che ci aiutavano a quel tempo a costruire impianti d'acquacoltura o pescherecci o impianti a terra. Poi piano piano la politica comune della pesca è arrivata in Mediterraneo anche con norme restrittive. Chiaramente l'influenza degli interessi prevalenti comunitari, cioè quelli del nord Europa, ancora giocano un ruolo importantissimo. Infatti molte generalizzazioni, molte diagnosi approssimative sono improntate a dei sistemi anche di analisi che vengono dai mari settentrionali e dall'Atlantico, e che ci fanno soffrire di approssimazioni e, diciamo, di mancanza della considerazione della specificità mediterranea. Coccia, dal vostro punto di vista invece, Confcooperative, questa deroga non si poteva in qualche maniera ottenere che rimanesse in vigore, se era un bene che rimanesse in vigore? Beh, intanto io premetto che sono contento di questa pubblicità che ha avuto il nostro settore grazie alla cucina, alle tradizioni degli italiani che vogliono ancora mangiare certi tipi di pesce. Alcune imprecisioni, è vero, ci sono, però devo dire che quello che c'è dietro a quei piatti, a quei prodotti su quei piatti, è un'attività che è stata in questi ultimi anni, a seguito delle cose che diceva prima Bonfiglio, talmente penalizzata che noi abbiamo avuto una contrazione sia in termini di flotta sia in termini di occupati notevoli. notevole, quindi anche di produzione. Oh, ma aspetti un secondo, perché questo è molto importante quello che dice. La contrazione, lei dice, è anche figlia, effetto di norme eccessivamente restrittive, cioè che antepongono troppo la tutela del bene comune, cioè del patrimonio ittico, oppure sono norme che ottengono questo effetto perché in realtà sono dettate da una mano meno attenta ai problemi del settore della pesca italiana, perché appunto ha in testa il modello produttivo standardizzato su altre tipologie dell'Atlantico? Allora, e quando l'Europa ha cominciato a occuparsi di Mediterraneo, la metodologia era la stessa. Il Mediterraneo ha un tipo di pesca che alcuni parametri o alcuni metodi usati per il nord non vanno assolutamente bene. Mi riferisco in particolare alle quote. Al nord, per esempio, ci sono le quote della pesca della sardina piuttosto che della ringa. E da noi, quando si va a pescare, si pescano decine e decine di specie diverse di tipo commerciale, e che quindi diventa difficile fare questo tipo di politica. Cosa ha fatto l'Europa? E noi condividiamo la premessa, e la premessa era ed è salvaguardare le risorse per i nostri figli, perché nel futuro la pesca deve continuare, e noi su questo siamo contenti, siamo giusti, siamo d'accordo, benissimo, il concetto è giusto, l'applicazione è: agiamo esclusivamente sulla flotta diminuendo la sua capacità. È pericoloso la capacità che noi in questo momento stiamo sviluppando, bisogna diminuirla. E negli ultimi 20 anni è iniziato un processo di incentivazione alla demolizione delle barche. Noi abbiamo diminuito del 35-40% la flotta, ci stiamo avvicinando con le prossime demolizioni quasi al 50% della flotta. Abbiamo diminuito di 15.000 unità su 45.000 unità gli addetti, quindi oltre il 30% con quello che noi quest'anno nel 2009 ancora non è stato fatto il calcolo, ma insomma l'andamento è quello, e così via. E la produzione è diminuita negli ultimi 6 anni di oltre 150.000 tonnellate. Già importiamo oltre il 60% del prodotto che consumiamo. Il 60% del prodotto che consumiamo non è pescato da barche italiane. Allora, se questa è la politica, qualcosa non funziona. Allora, le deroghe in effetti in alcuni casi possono essere ancora ottenute. Il processo per averle comportava dei processi abbastanza complicati, perché non esiste un regolamento semplice da applicare. E teniamo presente che l'Italia in questi 4 anni ha cambiato 2 governi. E quindi lei dice anche questo ha aiutato poco, insomma, perché ci vuole continuità di rappresentanza a Bruxelles. Sì, perché se noi dobbiamo fare i cosiddetti piani di gestione, intanto bisogna avere chiaro cosa significa farli, dare gli incarichi a chi è giusto darli per farli, coinvolgere le categorie e le regioni, un sistema complesso dove peraltro nella pesca Stato e Regione dialogano male. Abbiamo presentato diversi piani di gestione sui quali aspettiamo le risposte. Il problema è che queste risposte non sono venute entro il 31 di maggio e che il 1 di giugno ovviamente l'Europa dice... Quindi Coccio ci ha spiegato che in realtà la possibilità di forse ottenere una deroga dipendeva anche dalla efficacia con cui il processo di concertazione tra diversi livelli nazionali nostri, regionali e nazionali, nel settore della pesca doveva porsi in condizione di avere la documentazione giusta, se capisco bene, per chiedere la deroga. Poi un fatto diverso era ottenerlo, non abbiamo fatto neanche quello, succeduti ministri diversi, la colpa è un po' della politica nostra. E allora sentiamo le voci di Bonfiglio Coccia, si aggiunge quella di Mara Bizzotto, che è europarlamentare italiano della Lega Nord e che è una delle voci che si è levata con più energia su questo regolamento. È colpa anche un po' della politica italiana, dice il settore, onorevole Bizzotto. Lei che dice? Sicuramente sì, è colpa della politica italiana che non ha saputo far valere i propri diritti e soprattutto difendere i propri cittadini, in questo caso pescatori, in Europa. Ma è colpa anche di un'Europa che non è attenta alle esigenze del territorio. Cioè, io credo che sia assurdo che l'Europa ci imponga cosa dobbiamo mangiare. Insomma, tempo anni fa ha deciso la curvatura della banana, circonferenza delle zucchine, ha deciso che si può fare un'aranciata senza arancia, ha deciso di fare il formaggio senza latte e noi, la politica, è stata in silenzio per creare questa Europa che sinceramente non capiamo a cosa serve. Credo che sia una follia che l'Europa abbia preso questa posizione sulla pesca, anche perché la pesca veneta emiliana del nord Italia, ma dell'Italia in genere, è molto diversa di quella del nord Europa. La pesca veneta è una piccola pesca costiera, ma va anche sottolineato che a rimetterci con questo regolamento è anche la nostra gastronomia, i nostri ristoranti, il nostro turismo, soprattutto una stagione che va aprendosi proprio in questo momento, quindi bisogna smettere, secondo la Lega, di subire in silenzio questi regolamenti, queste direttive dell'Europa che non tengono conto delle diverse realtà territoriali e della nostra tradizione, in questo caso tradizione culinaria. Ma lei quindi e la Lega che cosa proporreste? Una specie di disapplicazione nazionale deliberata, dichiarata, dicendo in questo regolamento non ci riconosciamo, a prescindere, per così dire, dalle responsabilità che possiamo ammettere per non esserci messi nelle migliori condizioni per ottenere una conferma della deroga, però intanto, siccome non ci riconosciamo, lo disapplichiamo. Questa potrebbe essere una soluzione? In realtà non siamo pazzi, perché non vogliamo mettere in pericolo i nostri imprenditori, i nostri pescatori. Noi quello che vogliamo, e in questa direzione ci stiamo muovendo a tutti i livelli, dalla regione al governo italiano e anche qui in Europa, è che si ottengano nuove deroghe per alcune tipologie di pesca, quelle che sono poi l'economia del nostro territorio. Quindi se qualcuno ha sbagliato per il passato, purtroppo non è il momento ora di fare gli esami o altro, è il momento di agire, di reagire, di fare quella filiera che a volte viene fatta a parole ma non di fatto, per ottenere quelle deroghe, per permettere la pesca, per organizzarsi poi bene, con più testa e non solo guardando le regole europee, perché effettivamente la pesca va governata e va salvaguardata, ma non vanno fatti provvedimenti come sono stati fatti fino adesso. Quindi l'impegno della Regione Veneto, lo so perché ci siamo ovviamente sentiti, l'impegno del Ministro Galan va in questa direzione di ottenere nuove deroghe. Tra l'altro il problema che abbiamo noi lo hanno anche comunque gli altri stati del Mediterraneo, non è unico, quindi spero proprio che con un po' di buon senso e con la spinta del territorio, in questo caso, si ottenga quello che è giusto ottenere, una deroga, e spero anche che sia l'occasione per tutti i politici, soprattutto italiani, che hanno guardato all'Europa solo con favore, come una cosa positiva, capire che l'Europa è giusto che dia delle deroghe, delle direttive, ma non può compromettere l'economia e la nostra tradizione, che in questo caso è culinaria, ma in altre volte è stata culturale, in altre volte agricola, e sempre insomma intromettersi sulla nostra economia. Noi non ci stiamo, io non ci sto, noi della Lega non ci stiamo, quindi a tutti i livelli combatteremo per dare giustizia ai nostri pescatori, ai nostri ristoratori e anche ai cittadini che hanno diritto di mangiare quello che vogliono, non quello che vuole l'Europa. E non quello che vuole un tecnocrate della Commissione Europea. Esatto, lo inviteremo magari a Venezia, a Chioggia o a Caorle. E vediamo poi se dice no ai piatti. Io devo dire la verità, siamo partiti da una cosa soddisfacente, cioè vi abbiamo spiegato che un po' di esagerazione, è vero, c'è stata sul giornale. Bonfiglio vi ha spiegato che qui si tratta, non è affatto una sorpresa, non è una levata di capo improvvisa, questo regolamento in realtà è del 2006, 4 anni, e poi noi avevamo delle deroghe. Le deroghe non ci siamo messi in condizione di chiedere e di ottenere la conferma, e quindi è entrato semplicemente in vigore. Coccia, il presidente del Confcooperative, ci ha spiegato però che il settore, a furia di interventi di regolazione di questo tipo, è molto penalizzato, quindi il suo rilievo economico, gli occupati, la capacità di produrre reddito, questo è confermato dai dati di tutte le marinerie, guardate, in Italia, non è il punto di vista dell'organizzazione che Coccia presiede, è così, per chi ha seguito dal punto di vista economico, produttivo e occupazionale della pesca nel nostro paese è un pianto, questa è la realtà vera. E chi dice ma l'Europa ha dato, ha potenziato con i contributi le sinergie per passare da troppe barche piccole a padroncini munite di mezzi migliori e razionalizzare le tecniche, dice solo una parte della verità. Con l'onorevole Bizzotto siamo arrivati poi al punto finale, cioè quello di riconoscere che anche l'Europa ha una sua bella responsabilità. Vedete dal fritto quanti problemi ci sono in quel piatto, ce ne sono anche poi di maggiori, delle verità. Per me liberista, l'incapacità del mercato di dare una risposta adeguata alla tutela e al miglior utilizzo dei cosiddetti beni comuni. Pensate che il Nobel quest'anno è stato dato a un'economista americana che non è neanche un economista, in realtà è più filosofa che economista, che affronta proprio questo tema: qual è la migliore risposta tra mercato o regolazione per la disciplina di un bene comune, sia patrimonio ittico, beni naturali, foreste, eccetera eccetera. E questo problema è un problema di grande impatto dal punto di vista della teoria economica, perché per noi mercatisti esiste sempre un punto nel quale prevale il meccanismo di mercato attraverso i prezzi, che è capace di arrivare fino al break even, al punto di rottura oltre il quale lo sfruttamento di un bene comune non conviene più neanche in logica di mercato. Però classicamente è vero, e lo riconosco anch'io che sono mercatista, che il mercato tende a riconoscere questo punto di non convenienza quando è un po' troppo tardi, cioè quando la dilapidazione, lo sfruttamento delle risorse è già arrivato a un punto di autoevidenza tale che vuol dire che si è inflitto un danno al bene comune, a tutti i suoi titolari in termini di diritti, ma a tutti coloro che poi non solo ci campano ma anche ne vogliono beneficiare di avere un mare ricco di pesce e così via. E allora il problema è quello che bisogna dire sì alla regolazione, ma come fare la regolazione meno peggio, per così dire? Questo è un bel problema aperto. Vedete, nel vostro piatto di fritto di pesce ci sono anche questioni filosofiche, teoretiche, oltre che politiche ed economiche. Eccoci tornati in studio in questo 2 giugno, Festa della Repubblica. Ci stiamo dedicando ai problemi della marineria italiana dopo questa nuova direttiva, nuovo regolamento, anzi, che entra in vigore dal 1 di giugno, che colpisce alcune specie di pescato italiano. I giornali l'hanno sparata come stop improvviso, altelline e canonicchi al fritto sulla pesca alla scura dell'Unione Europea, e vi abbiamo tentato di spiegare, che insomma la questione è un po' più delicata, complessa, è una storia lunga. È vero che l'Europa ha una dannata tendenza a stabilire burocraticamente cose da cui forse sarebbe bene, anzi con certezza sarebbe bene, che stesse più lontana, anche perché in nome della sussidiarietà chi è più vicino al problema lo conosce meglio rispetto a chi è a Bruxelles, oltre al fatto che a Bruxelles c'è chi ha orecchie più attente soprattutto a Nord Europa piuttosto che all'Italia. Sullo sfondo un problema della marineria italiana che è complicato dal punto di vista economico sempre e crescentemente negli ultimi anni, e iniziamo proprio con alcune voci di ascoltatori attenti non solo al problema culinario, a ciò che volete mangiare per così dire, ma anche poi a chi ci deve lavorare su questo settore. Cominciamo con Mario da Palermo. Che ne pensa di queste norme comunitarie innanzitutto? Di queste norme comunitarie io penso in modo positivo, perché agli italiani sta bene una cosa di questo genere qui, perché vengono fatte le leggi in Italia ma non si applica mai nulla a livello locale. Un esempio: io ho vissuto 15 anni all'estero, in Corsica, un'isola bellissima, avevo un ristorante. A un certo punto mi si è capitato un problema, nel senso che io avevo bisogno del pesce fresco e mi sono messo a lavorare, oltre ad essere ristoratore, con un pescatore locale di origine italiana. Una cosa positiva che c'era in Corsica cos'era? Che si stabilivano delle aree dove per 5 anni non si poteva assolutamente andare a pescare, e le assicuro, nessun pescatore locale osava mettere le reti in quella zona. Ma però ci sono anche in Italia i periodi di ripopolamento? No, lei dice che non sono efficaci e non sono osservate? Sì, infatti non viene osservato assolutamente nulla. Io abito adesso in una zona, bella, Isola delle Femmine, proprio vicino a Palermo, dove c'è un'area protetta. Comunque volevo finire il discorso ed era questo. Noi, questa persona qui di origine italiana, un giorno faceva una pesca e dice: oh, andiamo a pescare e andiamo a prendersi un bel po' di pesci, no? E dico: ma dove andiamo? Non ti preoccupare, abbiamo cominciato a calare queste reti fuori della zona dell'area protetta, e tutte le reti invece andavano a finire proprio all'interno. Da furbetti, forse di origine italiana, non so come, abbiamo tirato su effettivamente tanti di quei pesci, felici e contenti. All'indomani arrivano i gendarmi con le fotografie, perché ci hanno chiesto se noi avevamo pescato in quella zona, e noi no, figuriamoci. E vi hanno, per così dire, messo di fronte alle prove che mentivate. E voi? voglio dire che ci sono dei controlli incredibili dove nessuno può sgarrare. Qui un esempio, telefono, perché la zona è protetta qui a Isola delle Femmine, un pescatore subacqueo pescava nella zona dove non poteva assolutamente pescare. Il risultato qual era? Tre quarti d'ora, non sto dicendo una bugia, dal telefono, perché si passavano la capitaneria di Porto di Palermo, quella di Roma e poi a livello locale e poi soprattutto chi è lei, come si chiama, dove abita, l'indirizzo, tutte ero io. Grazie questo. Mario. Mario dice: queste norme, inutile lamentarsi, sono necessarie perché quelle delle regioni in materia, le regioni del nostro paese, sono A, non efficaci, B, soprattutto non osservate. Però il problema è analogo, perché una norma emanata da una regione dovrebbe essere meno osservata di una che invece è emanata da Bruxelles? Se non sono osservate, non sono osservate tutte, temo. Però comunque la prima voce dell'ascoltatore è favorevole. Sentiamo Graziano da Rimini. Lei che dice? La pensa così oppure no? No, uguali a lui esattamente. Intanto buongiorno, buon lavoro, buona trasmissione. Saluto anche Massimo Coccia, un mio carissimo amico, e il signor Bonfisi. Colgo l'occasione di fare i saluti. Massimo lo sa, io ti do del tu perché è una vita che ci conosciamo. Io ho 64 anni e ho navigato fin da bambino, avevo 8 anni, quando cominciai a navigare per la Tunisia, la Libia, eccetera, sfondando poi Gibilterra, Corno d'Africa, Senegal, Mauritania e poi Sud America, Perù, Paraguay, Uruguay. Quindi insomma la pesca l'ha fatta un po' in giro per il mondo. Quello che c'è ancora nel nostro paese è tutto sbagliato, la politica non si è mai interessata. Oggi noi stiamo facendo la fame da molti anni, al punto che non si riesce più a coprire purtroppo la copertura delle spese, perché sappiamo il gasolio, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho visto questo mare Adriatico ricco del 72-73, fino a 5-10 anni fa. Oggi è alla povertà. Alla povertà. L'Italia vive di mare, di destra e di sinistra, e per lunghezza, e questo mi ringrazio perché non è stato mai fatto nulla, e Massimo lo sa di quale partito io sono. No, teniamo fuori i partiti, però almeno i partiti bisogna dichiararli, che invitiamo a quel punto i parlamentari come l'onorevole Bizzotto, però nelle vostre considerazioni tentiamo di parlare dei problemi del settore, insomma, ecco. Per carità, non io me ne intendo di politica. Partito della pesca, io sono per far crescere di nuovo questo mare, sia Adriatico che Tirreno. Grazie Graziano. Sentiamo Luciano da Brescia, come la pensa lei? Ma innanzitutto volevo chiedere al parlamentare europeo che ha parlato poc'anzi, non se perlomeno dove si trovava lei, dove si trova il suo movimento quando questa norma è stata approvata. Primo, piuttosto semplice, non voglio essere troppo polemico, però mi sento di farla questa domanda. Secondo, mi limiterei a una constatazione, non neanche una constatazione, una previsione sul futuro. Tutto questo marasma alla fine ci farà raddoppiare il prezzo della frittura, e questo mi rincresce molto. Questo dice l'effetto più immediato. Adesso naturalmente poi diamo la parola all'onorevole Bizzotto per dare una risposta, ovviamente. Sentiamo ancora una voce clara da Torino. Pronto? Eccoci, che voce tonante. Buongiorno, abbasso la radio. Ecco, grazie. No, solo perché, a parte che io abito a Torino, sono una casalinga, non posso mangiare quei fritti perché mi fanno male al fegato, però hanno ragione questa gente qui. Però nessuno dice che io sono tanti anni che vado in Grecia, scusi se parlo così perché sto facendo colazione, vado in Grecia. E prima, 30 e più anni fa, mio marito pescava in apnea, non con le bombole, non faceva stragi, ne prendeva uno, due massimo pesci. Adesso buttano le bombe, in Grecia non c'è più un pesce. Cioè, ha capito? Sì, insomma, diciamo, questa è la prova che in realtà di norme, di rispetto delle norme, ce n'è più bisogno, non meno bisogno, come dire, ecco, perché anche i mari italiani non è che effettivamente siano, in termini di ricchezza, di varietà, quello che erano un po' di decenni fa. Basta avere una certa età, persino per me, che non sono proprio un vegliardo, ma anche se ho processi di invecchiamento molto più rapidi, però insomma ci si rende conto che forse il rispetto di qualche norma è utile, perché altrimenti poi il mare viene depauperato. Ma iniziamo a pensare un po' a risposte rispetto ai problemi che abbiamo che abbiamo sollevato. Innanzitutto è ovvio, facciamo rispondere l'onorevole europarlamentare della Lega Nord Bizzotto all'ascoltatore, senza polemica, ci dice l'ascoltatore, però voi c'eravate già quando nel 2006 è uscito il regolamento e così via, e cosa avete fatto? La sua risposta? Beh, io ovviamente sono arrivata l'anno scorso, ma l'ascoltatore dico che nel 2006 la Lega era tra forse l'unico partito italiano, uno dei pochi in Europa, euroscettica. Noi lo siamo sempre stati perché provvedimenti, regolamenti, direttive come quello sulla pesca non l'abbiamo mai condiviso. Purtroppo siamo stati soli. Detto questo, e non voglio accusare nessuno, credo che serva questo segnale come tanti altri, perché cito, sto esaminando adesso la direttiva Bolkestein, anche quella del 2006, anche quella che avrà effetti a volte devastanti sulla nostra economia. Detto questo, serve sicuramente un impegno maggiore e costante del governo italiano, che purtroppo non sempre c'è stato. Serve un impegno dei colleghi parlamentari, perché è inutile che neghiamo, alcuni sono qua a combattere in commissione, a controllare, a leggere le direttive, a tentare di capire, di rimediare a cose che non possono essere approvate, altri invece non lo fanno, quindi credo che sia necessario l'impegno di tutti, di tutta la politica italiana in questo caso, se vogliamo rimediare al problema della pesca, ma soprattutto evitare tra un anno, due, tre, perché poi l'effetto delle direttive o dei regolamenti è quello, di scoprire nuovi casi in cui gli interessi italiani non vengono tutelati perché è colpa nostra, perché qualcun altro a quel punto decide per noi. Grazie onorevole Mara Bizzotto, che ci deve lasciare. Ora le informazioni sulla circolazione stradale e poi due altri aspetti, uno quello del gastronauta e poi un altro del complesso del peso che l'economia italiana della pesca ha sul totale del paese. Eccoci tornati in studio, abbiamo scoperto insieme a voi un po' di aspetti di questa direttiva comunitaria che entra in vigore dal 1 di giugno, quella che vi è stata presentata con, abbiamo ammesso, un po' di esagerazione giornalistica, stop a tenere canolicchi, stop ai fritti nel vostro piatto. Abbiamo capito che la politica italiana ha delle responsabilità pesanti, non era affatto una novità, non è una novità, l'Europa ha delle responsabilità, però insomma le regole anche nel nostro paese non siamo stati capaci di darcele, di osservarle in maniera efficace, è mancata la concertazione giusta tra marinerie e regioni, insomma tutto questo ha portato a un depauperamento vero di chi ci lavora nel settore, ed è sempre più complicato tirar fuori soldi da barche e cooperative di pesca. E però c'è anche un altro aspetto ovviamente in tutto questo, l'aspetto così del palato, della cucina, della ristorazione. Vediamo un secondo con Davide De Paolini, Davide Paolini che è notissimo agli ascoltatori di Radio 24, il gastronauta e la nostra guida all'estetica e all'etica anche del palato, per così dire. Buongiorno Paolini, cosa cambia con questa direttiva? Ma guarda, io faccio una premessa che poi rinnego. Secondo me i divieti portano veramente negatività, nel senso che sicuramente ci sarà il contrabbando, perché ci sarà il contrabbando, pescatori di frodo o d'altro, come succede sempre in questi casi, succederà che importeremo dall'estero, come è già successo negli anni passati, vongole con batteri che arrivano da tutto il mondo. Io credo che sicuramente il mare sta per essere depauperato, perché non c'è solamente questo problema che vediamo oggi delle telline, ma c'è soprattutto quello del tonno che è un problema drammatico, perché è un pesce in via di estinzione, sempre più ci sono pesci in via di estinzione. Ma le cause non sono solamente di chi pesca o di chi fa le regole, è anche del consumatore, perché di 400 specie che sono nel Mediterraneo ne conosciamo e ne vengono consumate poco meno di 100. Quindi la gente, a forza di chiedere le stesse cose, sicuramente porta a depauperare il mare, perché la pesca si orienta solo su questo. Ci vuole informazione e conoscenza, ci sono dei pesci che costano veramente poco, che sono poco conosciuti, che contengono dal punto di vista della salubrità molto più di quelli noti e costano molto meno. Quindi io credo che qui ci voglia una grande informazione per far conoscere al consumatore che cosa offre il mare, che cosa si può ottenere dalla pesca senza incorrere a depauperamento dei pesci, come sta succedendo con molte specie. Quindi credo che ci debba essere una grande opera di informazione proprio su questo. Quindi l'informazione ha un grande compito, però mi pare di capire, pur essendo Davide Poini contrario alle regole, se poi il depauperamento di un quarto del totale del numero delle specie del Mediterraneo oramai è così forte, purtroppo queste regole poi servono. Sì, appunto, te l'ho detto, e poi smentisco quello che dico all'inizio, smentisco la mia premessa, però tutto questo è successo perché non c'è informazione, perché la domanda del consumatore, così come sulla carne, va tutta sul quarto posteriore e pochi conoscono i tagli del quarto anteriore che sono migliori e costano meno. Cosa succede con il mare? Ci sono decine e decine di specie di pesce che non sono conosciute, che se venissero consumate porterebbero a ridurre la domanda di molti pesci che vanno per la maggiore, e quindi con le conseguenze che stiamo vedendo. Grazie, grazie a Davide Paolini, al gastronauta, che quindi ammette che il problema dell'informazione è un problema fondamentale. Quindi, come vedete, non ci sottraiamo alle nostre responsabilità. Rimanendo sempre nel filone, per così dire, ristorazione e impatti di questa norma nella ristorazione, Marco da Reggio Emilia, che ne pensa lei? Buongiorno a tutti i suoi radioascoltatori e un applauso al dottor Paolini, perché l'appoggerei in toto a quello che ha detto. Però io mi riferisco in particolare, la mia testimonianza vuole essere questa. Io dico che la regola va benissimo, è perfetta, va allargata ad altri tipi di pesce, quali scampettini. Guardi, lei va in Puglia, i mercati di Gallipoli, le dico il nome, lei arriva, vede degli scampettini di 2,5 cm, ancora vivi, e andrebbero buttati in mare. Questa è una cosa che per me è indecente. Poi le dico questo, io mangio i datteri a Napoli, mangio i datteri a Bari, mangio i datteri a Spezia, a Forte del Mare i ristoranti hanno gli spaghetti con i datteri, a Marino di Massa mangio gli spaghetti con i datteri, e sono proibiti, dottore. È una cosa indecente, bisogna controllare, ma solamente con un bel controllo nei mercati generali, perché sanno le zone di origine. Riguardo il fritto, visto che io ho un ristorante, un piccolo ristorante in provincia, le dico, prendo dei tottanetti, prendo delle acciughe, prendo delle pescioline piccoline, come diceva Paolini, io prendo il pesce alternativo, solo che invece di fare pagare 20 la farò pagare 15. Che tutto sommato è anche meglio per il consumatore, quindi io mi auguro che si veda la differenza poi agli occhi dei suoi clienti. Comunque, come vedete, poi, aprendo un secondo i microfoni a chi segue professionalmente il settore, l'evidenza delle nostre autoresponsabilità, oltre alle colpe dell'Europa, ma l'evidenza delle nostre responsabilità in tutta la filiera, abbiamo visto quelle della politica, ma anche del consumatore, dell'informazione, è molto pesante. Quindi stiamo progredendo verso, man mano che ci avviciniamo verso la fine della trasmissione, per ammettere che tutto sommato non possiamo fare tanto la parte delle vittime. Ecco, di fronte a questo che era stato presentato come una boutade del lontano legislatore europeo. Ci ha raggiunto Alessandro Lucchetti, che è un ricercatore ISMAR, cioè dell'Istituto di Scienze Marine del CNR, che è in mare al largo di Crotone e sta proprio insegnando alle capitanerie di porto il nuovo regolamento. E quindi abbiamo approfittato chiedendogli 5 minuti, grazie a Lucchetti, perché ci porti il suo punto di vista, cioè di un ricercatore che segue scientificamente il depauperamento della fauna ittica e anche naturalmente l'impatto della nuova normativa per impedire che questo avvenga. Qual è il suo punto di vista su questa nuova norma comunitaria, Lucchetti? Salve, buongiorno a tutti. Guardi, io sinceramente nei giorni scorsi mi ero un po' preoccupato dal taglio che era stato dato alla notizia, nel senso tragedia per il settore peschereccio italiano, eccetera. Poi invece sento che anche dalle telefonate che sono giunte in realtà il punto di vista è ben diverso da quello mostrato nei vari organi di stampa, e effettivamente quello che dico io è che qui si sta parlando di cambiare una maglia da 40 a 50 mm, quindi non si tratta di uno stravolgimento epocale della pesca, e innanzitutto trovo alquanto ipocrita da parte di qualcuno sollevare problemi ambientali da una parte e poi lamentarsi nel momento in cui l'Europa fa una normativa che va a vantaggio, diciamo, dell'ambiente e porterà sicuramente dei giovamenti a lungo termine. È vero che nel breve termine probabilmente qualche piccola perdita potrebbe esserci, vi faccio riferimento ai calamaretti per esempio, ma di contrasto è bene evidenziare che nel lungo periodo sicuramente ci saranno dei vantaggi. Lei pensa che queste norme verranno rispettate come prima, cioè non troppo, mi pare di capire, o meglio di prima, anche se sono meno convenienti di prima? Perché questo è il punto. Che cosa si può fare la norma per rendere più conveniente il suo rispetto da parte di chi è nel settore? Ma Guardi, il problema fondamentale del settore peschereccio è questo. Io mi metto in regola, però vorrei che anche tutti gli altri si mettessero in regola. E quindi io rispetto le regole nel momento in cui le rispettano tutti gli altri. Se la cosa fosse comune a tutti, io penso non ci siano, non ci saranno grossi problemi. Il problema è che so per certo che in certe regioni questa introduzione di nuova maglia è vista, diciamo, un po' così, perché... No, diciamo un po' così, ci sono proteste di tutte le marinerie, non come un po' così, cioè sono esplicite, quindi il problema è sì. C'è una richiesta esplicita di farla, la deroga, a prescindere dall'ottenimento, prima dell'ottenimento, è un po' questo il dibattito che è aperto, allora, tra marinerie e politici locali. Il discorso è questo, è che si potranno avere deroghe forse per quanto riguarda le distanze dalla costa, ma sicuramente per quanto riguarda le maglie non c'è margine di manovra, ecco. E dal mio punto di vista è un bene che sia così. È giusto che sia così. Ecco, allora io devo levarle la parola, perché ormai mi fanno chiudere la trasmissione prima. Qui siamo ai golpe dei tecnici, che ahimè mi tocca anche ringraziare, ma comunque lo ringrazio per lo scrupolo con cui toglie la parola al conduttore. Sto scherzando, lo dico per tutti, non vorrei. È il 2 giugno, quindi ci prendiamo un po' di cose da festiva. Comunque, in conclusione, abbiamo dovuto riconoscere che il problema della regolazione dei beni comuni esiste, e quindi queste maglie che diventano più larghe, insomma, forse si fosse rispettato di più anche le regole italiane, facciamole meglio queste regole italiane, però esiste anche un problema comunitario di interesse italiano non tutelato, e soprattutto l'approssimazione dei giornalisti, abbiamo scoperto che era alla radice di tutto il misunderstanding. Grazie in regia al tecnico taglialinea Carmelo Lauricella, grazie in redazione ad Alessandro Marco Tulli. La linea Generale Radio, appuntamento a domani.